perfetto giorno di Simone Spezia. Bentornati a tutti, bentornate cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Questo è il podcast di Effetto Giorno. Io sono Simone Spezia e anche oggi vi accompagneremo tra le notizie di questa giornata, cercando di riassumerle, cercando di dare a queste notizie un po' d'ordine, naturalmente notizie relative al momento nel quale registriamo questo podcast, cercando di proiettare lo sguardo un po' più avanti e cercando, come facciamo ogni giorno, di raccontarvi anche delle storie che possano rimanere, che possano interessarvi. Quella sulla quale ci siamo concentrati oggi e che sentiremo da poco è quella di un ex presidente della provincia di Reggio Emilia che ha denunciato da tempo le infiltrazioni dell''ndrangheta nella vita pubblica. Come sapete, due giorni fa c'è stata una grande operazione con un centinaio di arresti. Ebbene, ha raccontato di essere stata in parte emarginata dal suo partito, che è il Partito Democratico. Ha anche raccontato altro, perché rientra, non per colpa sua, nelle intercettazioni, perché c'è un ex capogruppo del PDL che dice: a quella dobbiamo fare una curetta. Sentiremo la sua voce. Naturalmente però apriamo parlando del Quirinale e non potremmo fare altro, perché oggi c'è stata la seconda votazione, ci sarà anche la terza, probabilmente si andrà sulla quarta, nella quale dovrebbe essere eletto, salvo franchi tiratori, salvo che Renzi non abbia sbagliato completamente i calcoli, dovrebbe essere eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per un suo ritratto vi rimandiamo al podcast di due giorni fa, nel quale ve l'abbiamo fatto ascoltare. La cronaca di oggi, appunto, ci racconta di una nuova fumata nera e ce lo racconta Alessandra Schepisi. Fumata nera anche per la seconda votazione, nessun candidato ha raggiunto il quorum di 673 voti, ci sono state 529 schede bianche, 119 voti per Imposimato, 51 per Feltri, 34 per Luciana Castellina. Si va dunque alla terza votazione nel pomeriggio alle 15.30, ma l'attenzione è tutta per la quarta seduta, quella di domani mattina, quando il quorum scende a 505, ovvero la maggioranza assoluta, seduta che potrebbe essere quella definitiva, perché la strada per Sergio Mattarella sembra spianata. Attorno a questo nome il PD ha ritrovato l'unità, i vertici del Nazareno sono convinti che non arriveranno franchi tiratori a cercare di affossare questa candidatura, anche se si continua a lavorare per serrare i ranghi del partito. Ma segnali rassicuranti arrivano dalla minoranza Dem, e sentiamo Pippo Civati. C'è, ci sono probabilmente anche chi non è più nel 5 Stelle, magari anche il 5 Stelle ci sta pensando, quindi è uno schema che io avevo definito non Nazareno, no? Quindi quantomeno al netto del Nazareno, che questo significa che non c'è più, che è contro il Nazareno, che loro litigheranno per sempre, non ci credo finché non lo vedo. Dopodiché io spero che nessuno voglia fare lo stupido, lo spiritoso dentro sé, il segreto è l'una, come è capitato l'altra volta, insomma. Prodi e Mattarella si assomigliano molto dal punto di vista della collocazione politica, speriamo non nell'esito del voto. Mattarella è anche un nome sul quale convergono Scelta Civica e SEL, i dissidenti grillini invece non avrebbero ancora sciolto la riserva, ma il loro voto dovrebbe alla fine esserci, mentre il Movimento 5 Stelle concorderà la linea con un'assemblea questa sera, e nel caso in cui Imposimato dovesse ritirare la sua disponibilità rientrerebbe in campo Prodi. La quarta votazione, come si diceva, è quella decisiva. Lo ricordiamo sempre, per chi non lo sapesse naturalmente, perché è giusto farlo, per l'elezione del Presidente della Repubblica ci vogliono, per le prime tre votazioni ci vuole una maggioranza qualificata di due terzi dei cosiddetti grandi elettori, che comprendono senatori, deputati e rappresentanti delle regioni, mentre invece a partire dalla quarta votazione basta la maggioranza semplice. Tutto dunque si concentra là, come ci spiega bene Daniele Biacchessi. Per il Quirinale lo schema che ha in mente il premier Matteo Renzi è chiaro e trasparente. Nelle prime tre votazioni il Partito Democratico, pur indicando Sergio Mattarella come successore di Giorgio Napolitano, sceglie di votare scheda bianca. Del resto Renzi, fino a stasera, non avrebbe i 673 voti necessari per eleggere il nuovo capo dello Stato e non basterebbero le alleanze con SEL, Scelta Civica, Centro Democratico, Autonomia, PSI, PLI. E poi Forza Italia resta al momento spiazzata e prosegue con le schede bianche. NCD schiera Pier Ferdinando Casini, il Movimento 5 Stelle conferma Ferdinando Imposimato, Lega e Fratelli d'Italia indicano Vittorio Feltri. Da domani però le cose cambiano sul piano tecnico e politico. Per la quarta votazione di domattina il quorum richiesto si abbassa sensibilmente e scende da 673 a 505 voti. Dunque Sergio Mattarella almeno sulla carta potrebbe farcela. Renzi avrebbe infatti dalla sua parte 444 del PD, 33 di SEL, 32 di Scelta Civica, 13 Popolari dell'Italia, Centro Democratico, 31 del Gruppo Autonomie, 15 del GAL, Grandi Autonomie e Libertà. Quindi 568 voti potenziali, 63 in più del quorum. I più ottimisti arrivano ad ipotizzare una convergenza su Mattarella tra 580 e 585 voti. Sul piano numerico, almeno teoricamente, domani Mattarella potrebbe essere il nuovo Presidente della Repubblica. Restano però in campo le variabili politiche. La prima è certamente quella dei franchi tiratori, che potrebbero colpire all'impazzata per sparigliare il tavolo di gioco, mossi magari da qualche candidato rimasto escluso dalla corsa al Quirinale. Ma un grande risultato Renzi lo ha già ottenuto, ha ricompattato il PD sul nome di Mattarella, messo in difficoltà i partner di governo e di opposizione e avviato un settennato presidenziale con una figura istituzionale certamente alta sotto il profilo dell'autorevolezza. E siamo all'altra notizia di questa giornata, una notizia importante che riguarda l'economia, che se volete si può anche affiancare a una notizia, questa è una notizia positiva, se volete si può affiancare anche ad una notizia negativa, alle indicazioni che sono arrivate oggi dal rapporto annuale dell'Eurispes, secondo il quale il 47% delle famiglie non ce la fa ad arrivare a fine mese, insomma non riesce a tenere insieme entrate e uscite, però evidentemente qualche segnale c'è e questo segnale arriva dai dati sulla disoccupazione. Sentiamo. Dopo un lungo periodo negativo per il mercato del lavoro, il tasso medio di disoccupazione a dicembre risulta in calo del 12,9%, in diminuzione di 0,4 punti percentuali su novembre. Lo ha comunicato l'Istat, rilevando che si tratta del ribasso più forte dall'inizio del 2011. Anche per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dei 15-24 anni, si registra una riduzione al 42%, a novembre era al 43%, ed è il valore più basso dal dicembre del 2013, quindi da un anno. Sempre a dicembre si registrano 93.000 posti di lavoro in più, un incremento dello 0,4% in un mese. Complessivamente, a dicembre gli occupati sono 22.422.000. Anche nella zona euro a dicembre il tasso medio di disoccupazione è sceso all'11,4% dall'11,5% di novembre. Si tratta del tasso più basso dall'agosto del 2012. Guardando a tutta l'Unione Europea, i disoccupati risultano in calo del 9,9% ed è la prima volta che scendono sotto il 10% dall'ottobre del 2011. L'Italia è il paese che registra il calo della disoccupazione più sensibile di tutta l'UE. Sul suo account Twitter il premier Matteo Renzi non nasconde la sua soddisfazione. 100.000 posti in più in un mese, bene, ma siamo solo all'inizio. Riporteremo l'Italia a crescere, aggiunge il premier. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il servizio. Abbiamo chiesto un'analisi a Linda Laura Sabbadini, che è dell'Istat, è direttore delle statistiche sociali e ambientali. Abbiamo chiesto qualche spiegazione su questi dati. Da cosa nascono? Sentiamo. Deriva soprattutto da un aumento dell'occupazione, più 93.000, e in parte anche da un aumento dell'inattività. Quindi vuol dire che una piccola parte è anche dovuta a un certo numero di persone che smettono di cercare. Però la componente maggiore è quella legata all'occupazione. E qui va sottolineato un aspetto importante, e cioè noi venivamo da una situazione in cui per due mesi successivi, novembre scusate, ottobre e novembre, l'occupazione era diminuita. In realtà questo dato è un dato positivo perché ha interrotto la diminuzione dell'occupazione, che come si sa noi dobbiamo aspettare almeno tre occorrenze per poter dire che un certo andamento si è consolidato nel tempo. Sì. Ebbene, non c'è stato il consolidamento del calo dell'occupazione. Abbiamo un segnale positivo di aumento dell'occupazione, dovremo ovviamente vedere questo, che ora è un segnale, si tramuterà con gennaio e febbraio in un consolidamento del suo aumento. A cosa lo attribuite, Sabbadino? È un po' presto per dirlo? È un po' presto per dirlo, ebbene, anche perché, come sapete, i dati relativi all'occupazione e alla disoccupazione mensili che noi produciamo danno pochissime variabili di disaggregazione perché sono fatti su un campione che è molto più piccolo, quindi dobbiamo aspettare un po' l'approfondimento sulla base dei dati trimestrali. Durante la trasmissione molti di voi ci hanno scritto, alcuni di voi ci hanno scritto, alcuni hanno addirittura detto questi dati sono falsi. Non sono falsi, sono i dati dell'Istat, l'Istituto di Statistica Italiano, e di questi naturalmente dobbiamo fidarci. Altri ancora ci hanno detto non capite quello che succede perché in realtà le famiglie stanno male. Sappiamo benissimo anche questo, sappiamo che le famiglie stanno male. Detto ciò, questo è un dato positivo, tenete presente che comunque la disoccupazione resta al 12,9%, tenete presente che cala la disoccupazione giovanile ma resta sempre al 42%, insomma non è che abbiamo detto stanno tutti bene, abbiamo detto semplicemente che c'è un dato positivo. Passiamo ad altro. La storia della quale vi parlavamo in apertura, ossia Sonia Masini. Sonia Masini è l'ex presidente della provincia di Reggio Emilia, capogruppo per i DS in regione dal 95 al 2000, denunciò le pressioni dell''ndrangheta e le infiltrazioni dell''ndrangheta nella vita pubblica, nel mirino anche di uno degli arrestati della maxi operazione dell'altro giorno in Emilia-Romagna. Giuseppe Pagliani, ex capogruppo del PDL in provincia, ora agli arresti dice che avrebbe voluto riservarle una curetta come Dio comanda. È proprio da qua che siamo partiti nella nostra chiacchierata con lei. Nelle intercettazioni emergerebbe, secondo i magistrati, un patto tra questo consigliere che era il capogruppo di opposizione in provincia e i capi dell''ndrangheta locale per dare, diciamo così, fastidi quantomeno ad alcune persone, tra queste la sottoscritta, per la loro attività. Ma volevano ammazzarla, Masini volevano ammazzarla. Io mi auguro di no e spero proprio che non fosse così. Si riferivano a un'uccisione politica, diciamo così, perché poi delegittimare un amministratore in carica accusandolo di essere disonesto significa ucciderlo politicamente e moralmente, quindi è quello che è stato cercato di fare. Io ho subito una campagna molto forte per alcuni anni, degli attacchi ripetuti e molto forti, quindi evidentemente ci si riferiva a questo. Non ho idea di altri tipi di minacce. Di altri tipi di minacce. Naturalmente di no. Senta, Masini, lei ha detto anche di essere stata emarginata dal suo partito, il Partito Democratico, cioè di aver detto in una serie di riunioni: attenzione, l''ndrangheta si sta infiltrando anche dalle nostre parti. Dunque, diciamo che io nel corso degli anni, perché dire lo dicono magari anche altri, ma nel corso degli anni ho messo in campo molte iniziative concrete. Ho revocato degli appalti, ho negato delle licenze, quindi ho contrastato degli interessi economici che sono poi il fulcro degli interessi delle cosche. E ho anche preso posizioni molto nette e così via. Ho avuto una parte del mio partito, anche il gruppo, soprattutto alcuni molto convinti al mio fianco e molti cittadini. Ho avuto molti problemi anche dentro il partito e ho dovuto, soprattutto in alcune occasioni, come in quella della revoca di un appalto, oppure nell'attaccare lo stesso Pagliani dopo la sua partecipazione ad una cena, ho dovuto convincere parecchie persone che erano molto incerte, molto tiepide, ritenevano la mia azione troppo energica. Ma soprattutto quando poi si è trattato anche di avere la possibilità, insomma, di concorrere ad altre elezioni e così via, Io sono stata abbastanza emarginata senza che mi fosse spiegato perché, perché io ho superato una consultazione interna in modo favorevole e io ho detto: guardate che le persone che sono in prima fila nell'opporsi alla criminalità organizzata non vanno lasciate sole. Penso che si sia sottovalutato questo aspetto. Senta Masini, parla di sottovalutazione lei, ma non ritiene anche che ci siano stati magari degli interessi economici di persone o aziende in qualche modo collegate anche banalmente solo per rapporti amicali con suoi compagni di partito che abbiano influito? Guardi, questo sinceramente io non lo posso dire. Ci sono adesso, tutti sospettano di tutti, il clima non è bello perché capisce che quando escono queste cose tutti sono sospettati. Se non lo può dire, mi scusi, se non lo può dire vuol dire che non lo può nemmeno escludere. Non lo so, perché ci sono indagini in corso, perché i magistrati stanno facendo il loro dovere in modo eccellente e io ho molta fiducia nella magistratura. Quindi mi rimetto a quello che loro dicono. Io nella mia vita amministrativa e politica ho sempre seguito anche le indicazioni, almeno quello che si poteva comprendere dagli atti della magistratura, dalle loro indagini, dalle condanne eccetera. Io mi fido molto e quindi aspettiamo se ci saranno eventuali sviluppi. Insomma, non sta a me dirlo cosa vuole, non è il momento di fare illazioni né di sottovalutare nulla. Lei ha scritto a Renzi, le ha risposto? No, non ho ancora scritto. Io ho detto che Renzi adesso è impegnato in qualcosa di molto importante, io non lo voglio disturbare, ma di questa cosa io gli parlerei volentieri e gli scriverò, sì, gli farò sapere, perché mi sembra anche giusto che conosca un po' il clima che c'è nel suo partito. Restiamo sulla cronaca parzialmente collegata alla politica, perché sta facendo discutere il processo lo scrittore Henry De Luca, accusato di istigazione alla violenza per aver dichiarato che il TAV va sabotato. Prima udienza 2 giorni fa, aggiornata al 16 marzo. De Luca è stato denunciato da una delle società che sta costruendo la linea ferroviaria. L'accusa sostiene che le sue parole hanno spinto i NoTav a compiere azioni violente. Ecco la difesa di Henry De Luca, intervistato da Alessandra Tedesco. Curiosamente, insomma, io sono incriminato per aver istigato a commettere atti contro il cantiere. Contro il cantiere. Che è un cantiere dichiarato area strategica dallo Stato. Chi doveva fare causa contro di me? Era lo Stato. Lo Stato doveva presentarsi come parte civile contro di me. Non si presenta lo Stato. L'avvocatura dello Stato non ha ritenuto che le mie parole fossero compromettenti nei confronti della sacralità strategica di quest'opera. Questa è una prova in più del vuoto che c'è sotto questa accusa di istigazione. Che pena rischia Henry De Luca per questa denuncia? 1-5 anni. Tu hai detto che comunque vada a finire e non ricorrerà in appello. Perché? Perché si tratta di un attacco alla libertà di parola. Se vengo considerato criminale di parole, beh, continuerò a ripeterle queste parole. Non penso di andare a cercare un altro giudice che sia più favorevole alle mie ragioni. Ti sei fatto un'idea di come potrebbe andare a finire? No. Assolutamente no. Visto che hanno voluto incardinare un processo sul vuoto, credo che andrà a finire male. Insomma, se la procura ha ragione, insomma, e il tribunale di Torino gli dà ragione, credo che andrà a finire male per me, ma non per il mio diritto di parola. Quello ne uscirà rafforzato. Cioè, Henry De Luca può finire in carcere per aver fatto delle dichiarazioni? Credo di sì, insomma, è questo che vuole l'accusa. Quindi è una probabilità. Uno mi dice inverosimile, ma in Italia ci sono molte cose inverosimili. Succedono molte cose inverosimili. Vi ricordo, tra l'altro, che l'intervista integrale a Henry De Luca andrà in onda domani nel Cacciatore di Libri alle 6.30 e alle 22. Siamo all'estero. Potrebbe essere un segnale che la pressione internazionale sta funzionando, è una vicenda della quale ci occupiamo praticamente ogni venerdì e quindi vi vogliamo aggiornare anche in questo caso. Stiamo parlando della vicenda di Raif Badawi. Chi è Raif Badawi? È un blogger che in Arabia Saudita ha semplicemente manifestato libertà di pensiero. Tra le accuse che gli sono state rivolte c'è quella di offese all'Islam, di apostasia. Ebbene, Badawi è stato condannato a degli anni di carcere e anche a 1.000 frustate. questa pena, quest'ultima pena, deve essere eseguita nella seguente maniera: 50 frustate a settimana pubblicamente dopo la preghiera del venerdì, per un totale di 20 settimane di frustate. Ebbene, Badawi ha ricevuto le prime 50 frustate, dopodiché questa è la terza settimana nella quale la sentenza non viene eseguita. Nei primi due casi si era trattato di motivazioni di salute, nel senso che già le prime 50 frustate avevano piagato Badawi, appunto, proprio nel suo stato di salute generale. Ebbene, la condanna, la pena, l'esecuzione della pena è stata rinviata anche oggi. Forse, appunto, le pressioni internazionali stanno funzionando, speriamo veramente che sia così. Per rimanere all'estero, però, parliamo di Ucraina, anche perché le forze separatiste consolidano la loro posizione sul terreno, accerchiando il nodo strategico che unisce le due principali città della regione e assicura i rifornimenti in arrivo dalla Russia. Il servizio. Dopo l'aeroporto di Donetsk è caduto nelle mani dei filorussi dopo quasi 9 mesi di combattimenti, la battaglia ora si concentra sul nodo strategico di Debaltseve, un villaggio cresciuto intorno alla ferrovia, alla strada nazionale che arriva da Donetsk e punta verso Lugansk e la Russia. I separatisti hanno conquistato la cittadina di Uglegorsk e così dicono sarebbe già concluso l'accerchiamento dei reparti di Kiev nella zona di Debaltseve, che dista solo 14 chilometri da Uglegorsk. E proprio dalla cittadina, il leader dei ribelli, Alexander Zakharchenko, parla di fronte alla telecamera della televisione russa sullo sfondo di un villaggio in fiamme. Intorno a lui carri armati, mezzi blindati delle forze separatiste che appaiono ben organizzati e coordinati. Spiega che i suoi uomini controllano tutte le vie d'accesso alla zona ed esorta i militari ucraini a deporre le armi per avere salva la vita. Questo è il quadro parziale ma drammatico sul terreno all'indomani della riunione che ha visto l'UE presentarsi divisa sulla linea di pressione da adottare nei confronti della Russia per il suo appoggio ai separatisti dell'est ucraino. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Siamo alla Grecia ora, dove gli incontri del nuovo governo, del governo Tsipras, stanno proseguendo. Ieri il presidente dell'Europarlamento, oggi quello dell'Eurogruppo. Oggi è la volta del presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, arrivato ad Atene per incontrare il neo premier Tsipras e il ministro delle finanze Varoufakis. Per Varoufakis l'inizio di una serie di incontri sicuramente non facili. Sarà lui stesso ad avviare la settimana prossima un tour per le capitali europee, fra queste Roma, Londra e Parigi, alla ricerca di sostegno per la nuova politica greca. Politica sulla quale è stato netto il giudizio di Dijsselbloem, che poco prima di partire per la Grecia ha consigliato al governo greco di non procedere all'attuazione delle promesse elettorali perché, ha spiegato ai giornalisti, potrebbero provocare il deragliamento dell'economia. L'esecutivo greco punta infatti a un taglio del suo debito legato a un piano di salvataggio di 240 miliardi di euro. Ci aspettiamo che il governo mantenga gli impegni presi, ha tagliato corto il vicepresidente della Commissione europea, Katainen, da Francoforte. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo sport. La giornata sportiva di oggi ci parla soprattutto della Ferrari, perché è stata finalmente presentata la nuova auto da Formula 1, nella quale naturalmente tutti noi riponiamo qualche speranza maggiore rispetto a come sono andate le cose l'anno scorso. C'è naturalmente Sebastian Vettel, se vogliamo è anche diritto, che dichiara grande entusiasmo per questa macchina, dice è bellissima, non vedo l'ora di mettermi al volante. Sentiamo il nostro Enrico Pagliarini. Allora, l'auto dal punto di vista estetico è molto simile a quella dello scorso anno, è cambiato un pochettino il musetto. Un particolare, su questo magari si potrà fare un approfondimento, gli sponsor sostanzialmente sono gli stessi dello scorso anno, tranne una posizione molto più evidente del marchio Alfa Romeo, che è indicativo insomma anche delle strategie della Ferrari. Allora, dicevo, molto simile dal punto di vista estetico e cromatico, speriamo non lo sia dal punto di vista tecnico delle prestazioni. Si chiama, questo era stato già annunciato qualche giorno fa, SF15T. SF, scuderia Ferrari, 15 l'anno, T sta per turbo, per ricordare che come del resto lo scorso anno i motori sono passati al turbo. La Ferrari ha dichiarato che è il frutto di 1500 ore di galleria del vento, 250.000 ore di progettazione, ma va ricordato che il progetto di un'auto, soprattutto di questo tipo, è molto lungo, quindi bisognerà vedere se i cambiamenti che la Ferrari ha subito negli ultimi mesi sono serviti per colmare il gap con le altre scuderie, Mercedes soprattutto. A proposito di cambiamenti, ricordiamo forse quello principale. Sebastian Vettel esordirà domenica a Jerez in Spagna alla guida della nuova Ferrari, ha detto, la sentiamo in sottofondo in un'intervista che ha realizzato questa mattina, ecco, the car looks beautiful, quindi la macchina sembra bellissima, e lui ha detto non vedo l'ora di scendere in pista per vedere come si comporta. Quindi da domenica Vettel guiderà la nuova monoposto. Ricordiamo che Vettel ha preso il posto di Alonso che ieri ha presentato la nuova McLaren con motore Honda. Vedremo insomma come si comporteranno queste auto in pista. A proposito di altri cambiamenti, lo ricordiamo, da pochi mesi alla presidenza della Ferrari c'è Marchionne al posto di Montezemolo, a capo della scuderia Maurizio Arrivabene. E speriamo che il nome speriamo che sia porti. Di buon auspicio. Esatto. Allora, ultima cosa che vi dico, vi ricordo che ci sarà tempo allora non tantissimo perché c'è tutto un regolamento strano sulle prove. Comunque si inizia il 15 marzo, poco prima, con le prove da Australia, Melbourne. Occhio che bisognerà svegliarsi presto perché a causa del fuso orario, insomma, la gara sarà all'alba, ora italiana. In bocca al lupo alla Ferrari. In chiusura vogliamo occuparci di noi, io ve lo ricordo questo appuntamento, mi raccomando mettetevi in ascolto, da lunedì alle 15.30 parte Il Falco e il Gabbiano, la nuova trasmissione di Radio 24 condotta da Enrico Ruggeri, una trasmissione nella quale si racconteranno storie sconosciute di persone normali, persone anche che nella loro esistenza hanno saputo dare un colpo d'ala, volare in alto e fare cose che hanno lasciato il segno. Enrico Ruggeri intervistato da Marta Gagnola. Io parto dal presupposto che sulla vita di ogni persona si potrebbe fare un film, un libro, scrivere una canzone, e quindi raccontare storie è la mia vocazione, cioè a me piace raccontare delle cose agli altri, l'ho sempre fatto con la canzone, poi ho cominciato a farlo con i libri, con la televisione. La radio è un veicolo molto affascinante, intanto perché non vedi chi sta parlando, che anche se sai chi è, anche se sai che faccia ha, come nel mio caso, ha comunque quella micro connotazione affascinante che mi intriga. Poi la radio oggi è difficile che la si ascolti in 10, cioè la radio la ascolti da solo, in 2 o 3 in macchina, quindi non è un rito collettivo, è più simile al libro rispetto alla televisione, per esempio. E poi perché lavorando a questo programma già dopo una settimana ho capito quanto è grande la mia ignoranza, no? Perché ci sono veramente un sacco di storie sulle quali tu credi di sapere qualcosa e non è così. Braille, per esempio, tutti sanno che il metodo per leggere per i ciechi, per i non vedenti, è stato inventato da un signore che si chiama Braille. In realtà Braille l'ha messo a punto quando non aveva ancora 12 anni ed ha una storia affascinantissima di un bambino degli inizi dell'Ottocento che si prende il suo riscatto prima ancora di diventare adulto, e potrei fare mille esempi. Come li sceglierai queste storie? Ma il principio è questo, chiaroscuri, quindi non storie di persone buone e di persone cattive, perché io credo che la verità stia quasi sempre in mezzo nella vita, e storie di persone sulle quali pensiamo di sapere tutto e non sappiamo nulla, oppure andare a pescare, non so, io penso che il primo grande flash mob della storia siano stati i Mille. Che però non sappiamo bene chi li ha radunati, da dove sono partiti. Sappiamo che uno era Garibaldi e l'altro era Nino Bix. Ecco, andarne a pescare un altro dei 998 e capire perché si è imbarcato in questa avventura potrebbe essere interessante. Ed è veramente tutto anche per oggi per il podcast di Effetto Giorno. Io come sempre vi ringrazio per averlo scaricato, fate girare la voce, naturalmente se vi è piaciuto e se ritenete che ne valga la pena, scaricatelo sempre, tutti i giorni, magari iscrivetevi al nostro podcast così vi aggiorna quotidianamente il vostro programma che gestisce queste cose, vi aggiorna quotidianamente su quando il podcast è disponibile. Scrivetemi se avete dubbi, domande, perplessità, se avete anche delle critiche sono sempre benvenute, oppure delle idee per questo stesso podcast o anche per la trasmissione. Effetto Giorno @radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, oppure mi trovate su Twitter, Simone Spezia, rispondo anche là, sono uno piuttosto assiduo da quelle parti. Buona giornata.